Amen, amen. Santo, santo, santo, Lui è, noi lo innalziamo al di sopra di ogni altro. E anche come vedremo attraverso, come dicevo, come pregavo la parola predicata, Lui è degno di essere proclamato attraverso i nostri canti e attraverso la predicazione della parola. E questa mattina parleremo di un soggetto meraviglioso, bellissimo, che ci mette proprio l'allegria in cuore. Non so quanti di voi si ricordano, però l'anno scorso ho iniziato una serie dalle parole che Gesù ha detto, annunciando durante la Santa Cena. Vi ricordate? È quello che ha fatto con il pane. Ha preso il pane, c'è scritto, lo benedisse, lo spezzò e lo diede. E vi dissi che anche, e vedemmo insieme, che non solo Gesù lo diceva al pane, ma lo diceva di se stesso: Lui, il pane della vita, preso dal Padre da eternità passata per uno scopo ben preciso, è stato scelto e poi è stato benedetto dal Padre. Il Padre più volte durante la vita di Gesù ha proclamato, ha annunciato, ha adorato chi Gesù era e quello che Gesù ha fatto. Abbiamo visto in maniera simile ma non uguale che anche noi siamo benedetti dal Padre, non tanto per annunciare e proclamare il bene che c'è in noi, ma quando Gesù ci benedice crea quella bontà, crea quel bene, crea quel buono in noi. In questo modo Gesù ci benedice e oggi arriviamo allo spezzato. Bello, no? Vi mette l'allegria in cuore. Non c'era tema migliore per la festa delle donne, per esempio, che non la sofferenza, le afflizioni, perché di questo parla. Però come vedremo è fondamentale, eh? E io amo predicare la parola perché non puoi scegliere ciò su cui predicare, no? Perché le parole quelle sono: scelto, preso, benedetto, benedetto era bello, facile, e adesso è spezzato, rotto, afflizioni, sofferenze, ma di questo parleremo. Perché, by the way, o comunque un augurio a tutte le donne in mezzo a noi, siete bellissime e ve lo ricordo, siete scelte, non siete un caso, non siete un errore, ma Dio Padre da eternità passate vi ha visto e ha detto meraviglioso, è bello, è buono, e io prego che possiate ricordarlo in ogni momento e anche nelle vostre afflizioni, come vedremo questa mattina. Quindi, come dicevo, Gesù ha preso il pane e durante la Santa Cena lo ha spezzato, lo ha rotto, e questo parla di sé, delle sue afflizioni. E se siamo veramente uniti a Cristo, se camminiamo veramente verso la sua direzione, anche noi saremo spezzati, anche noi saremo afflitti e anche noi soffriremo. È una promessa. Beati i perseguitati, è una promessa. Se come Chiesa, se come individui vogliamo camminare nella sua direzione, allora abbiamo bisogno di una solida teologia della sofferenza. E a questo guarderemo. Però è anche vero che tutti nella vita soffrono. Siete d'accordo con me? Ci siete, giusto? No, tutti sono, non solo i figli di Dio soffrono. E si soffre per due motivi principali, o in due modi principali, fatemi dire così. Il primo modo è sofferenza causata. E questa sofferenza è causata dal nostro peccato o dai nostri errori. Siete d'accordo con me? Cioè, se io mi sfondo di hamburger ogni giorno della mia vita, tre pasti al giorno, prima o poi, prima in bagno, e poi nel resto andrà male, giusto? Quindi soffrirò a causa delle mie scelte, del mio peccato. Se ammazzo, andrò in prigione. Quindi noi soffriamo a causa dei nostri errori e dei nostri peccati. E io prego e spero che nessuno vorrà soffrire per questo. Nessuno, no, si mette l'intento, sì, io voglio soffrire proprio perché voglio ribellarmi a Dio, non fra di noi. Io prego che costantemente, ogni giorno, combattiamo il peccato nella nostra vita attraverso la forza della sua potenza e non soffrire a causa del peccato e dei nostri errori. Anche in questo dipendiamo da lui. Quindi, però, il primo modo in cui soffriamo è proprio questa sofferenza causata dal nostro peccato e dai nostri errori. La seconda la chiamerò, fatemi dire così, sofferenza provvidenziale o qualcosa che Dio permette nelle nostre vite. Dio permette il peccato, la sofferenza nelle nostre vite per compiere i suoi propositi. E questi propositi sono così alti che la maggior parte delle volte noi non li comprendiamo neanche. Però Dio permette queste sofferenze per un modo ben preciso. Quindi la sofferenza fa parte della vita e in questo secondo aspetto della sofferenza noi siamo chiamati a soffrire bene. Se vogliamo camminare come Gesù ha camminato, se vogliamo camminare nella sua direzione, nelle nostre afflizioni, siamo chiamati a soffrire bene. Perché la sofferenza verrà, scoperta dell'acqua calda, giusto? La sofferenza verrà, però per affrontare bene, per camminare nella sua direzione, dobbiamo essere pronti. E per questo non c'è modo migliore se non quello di guardare a Gesù, il pane della vita che fu spezzato. Gesù soffrì. Gesù era familiare con le sofferenze. Già il profeta Geremia profetizzò di questo centinaia di anni prima. Sentite cosa dice in Geremia 53. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, dite insieme a me, familiare con le sofferenze. Cioè aveva fatto casa con le sofferenze, era a suo agio. Familiare, era a suo agio con le sofferenze perché erano quasi una costanza nella sua vita. E anche Gesù ha sofferto in due modi. Ci siete fino a qui? Questa è tutta un'introduzione. Anche Gesù ha sofferto in due modi, proprio in due modi, in modo diretto. Che cosa significa questo? Che cosa significa che Gesù ha sofferto in modo diretto? Gesù ha sofferto in modo diretto per la conseguenza del fatto che lui ha annunciato il Vangelo. Perché Gesù ha annunciato il Vangelo, che il regno di Dio era giunto sulla terra, che lui sarebbe morto e risorto per i peccati e la salvezza di chiunque credesse, che lui era il figlio di Dio, che lui era Dio, quindi perché ha annunciato il Vangelo, Gesù ha sofferto, è stato perseguitato, è stato ingiuriato, è stato ostentato, è stato ostacolato dall'elite che lo voleva far fuori già dall'inizio. E il culmine di questa sofferenza diretta di persecuzione perché lui aveva annunciato il Vangelo, il regno di Dio, è stato la croce. Alla croce è stato tradito, prima da Giuda, poi da Pietro, è stato abbandonato dagli altri discepoli, ha subito ingiurie, fustigazione e poi crocifissione per mano dei giudei e dei romani. Una sofferenza era la tortura, forse è stata la tortura più disumana nella storia dell'umanità. La croce, una cosa terribile. Però io ho pensato una cosa, Gesù non è stato l'unico ad essere crocifisso. Perché le sofferenze di Cristo sono state più atroci, più profondamente devastanti? Uno, perché non pagava per il suo peccato, ma pagava per il mio e per il tuo peccato. È quelli che ha portato alla croce, e per questo noi siamo giustificati. Ma lui ha portato i nostri sulla croce. Per questo è stato devastante, ma ancora di più, ancora possiamo andare un livello oltre nel guardare le sofferenze di Cristo. Ve lo leggo da Matteo 27. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Figlio di Dio, il Verbo che era da principio con Dio ed era Dio, per un tempo è stato separato da Dio. Però la stessa cosa che da eternità era insieme in quella danza perfetta, è stata rotta per un tempo. Capite l'indicibile sofferenza di Cristo sulla croce e quello che ha fatto per me e per te? Per un tempo è stato separato da se stesso, se vogliamo. C'è stato un abbandono, un'atrocità indicibile che mai nessun essere vivente sperimenterà, se non Cristo, e Lui l'ha fatto per me e per te. Comprendete? No, no, non si può comprendere quello che Gesù ha vissuto all'essere separato dal Padre, loro che erano una cosa sola. Il mistero è grande, eppure Dio è stato separato. Così ha sofferto Cristo Gesù, fino a questo punto è stato spezzato, e Lui per noi. Ma noi, come Lui, se vogliamo camminare nella sua direzione, siamo chiamati a soffrire, ad essere spezzati nello stesso modo. Anche noi, proclamando il Vangelo, annunciando il regno di Dio nelle nostre vite, ai nostri colleghi, ai nostri colleghi studenti, agli amici, alla famiglia, proclamando il Vangelo, subiremo persecuzione. Saremo presi in giro, saremo ingiuriati, saremo ammazzati persino? Beh, diciamo che questa cosa fra di noi è molto rara, no? Non è la nostra realtà. Ma fratelli e sorelle, noi siamo l'eccezione. Noi siamo la Chiesa occidentale è l'eccezione, perché da quando la Chiesa è nata e fino ad oggi in molte parti del mondo i credenti pagano il prezzo più alto, la sofferenza diretta più alta per proclamare il regno di Dio e per annunciare il Vangelo. La Chiesa in Iran in questo momento, la Chiesa in Medio Oriente, la Chiesa in Nord Africa, la Chiesa in Sahel, la Chiesa nell'Asia, in varie parti dell'Asia, soffre e paga l'ultimo prezzo per proclamare il regno di Dio. Come Lui, anche noi siamo spezzati se vogliamo camminare nella sua direzione. Però Cristo, come dicevo, non ha sofferto solo sofferenze dirette, quindi direttamente correlate al fatto che Lui ha annunciato il Vangelo. Gesù ha sofferto anche per sofferenze indirette. Fatemi dire così. E queste sofferenze indirette quali sono? O come sono state causate? Sono state causate dal fatto che Lui ha scelto di farsi uomo. Lui ha scelto di umiliarsi. Ricorda un verso? Ha preso la fragilità e l'ha abbracciata. Ha lasciato l'essere Dio da parte, per me e per te, ed è diventato uomo. Ve lo leggo, leggiamolo insieme. Filippesi 2,14 dice proprio questo: Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, perfetto, senza nessuna debolezza e sofferenza, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Qui Gesù ha scelto di limitarsi, ha scelto di abbracciare l'umanità e per questo ha sofferto. Gesù ebbe fame dopo i 40 giorni, Gesù ebbe sete al pozzo con la donna, Gesù, per non dire la croce, anche alla croce ebbe sete, si stancò, per questo dormiva, per questo si andò a sedere al pozzo, Gesù pianse, Ricordate, Gesù pianse, ha abbracciato l'umanità, la fragilità, ha lasciato la perfezione per me e per te. E anche noi in questo, come Lui, soffriamo le afflizioni, le sofferenze indirette. E quali sono queste? Sono il fattore del fatto che siamo umani. Perché siamo umani? Perché viviamo in questo mondo che è corrotto, e lo sappiamo, per un tempo stabilito, d'accordo, però viviamo in un mondo corrotto e come Cristo soffriremo. Soffriremo ansie, soffriremo stress, soffriremo malattie, soffriremo limiti fisici, limiti emotivi, circostanze difficili nella nostra vita. Anche a Gesù non è piaciuta l'idea di soffrire, ricordate? Ha detto, se vuoi Dio, allontana questo calice da me, se puoi. A nessuno piace l'idea di soffrire, però Gesù l'ha abbracciata, perché nello stesso respiro ha detto, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Noi soffriremo come Cristo Gesù, o meglio, se vogliamo camminare nella sua direzione, dobbiamo poter abbracciare la sofferenza come Cristo l'ha abbracciata, sia quella diretta dovuta alla persecuzione e alla proclamazione del Vangelo, e sia a quella indiretta che fa parte della fragilità umana di quello che noi siamo. Questo ci appartiene, anche noi. Come Cristo Gesù, come abbiamo visto per l'essere stati scelti e benedetti, che erano molto più belli, più sì sì, amen, amen, io sono stato scelto, io sono stato benedetto, quello spezzato diciamo, signor, se lo evitavi questo, forse era anche meglio. Eppure anche in questo noi siamo uniti, anzi, se vogliamo, la parola di Dio dice che se vogliamo essere uniti a Lui, saremo uniti alle sue sofferenze, in Romani 8 lo dice. E quindi il Signore ci chiama alla sofferenza, però non ci lascia vagare nelle tenebre della sofferenza. Non ci lascia da soli, non ci lascia spaesati, ma dà delle linee guida ben precise. E vedo molte facce di voi e so e conosco le vostre sofferenze. E Dio non vi ha mai lasciati e non ci lascerà e non ci abbandonerà nelle nostre sofferenze, ma ci dà le linee guida. Uno Pietro, la lettera di uno Pietro, come tema principale ha proprio questo. Dall'inizio, dal capitolo 1, nelle svariate prove in cui vi troverete, fino all'ultimo capitolo, parla proprio di questo, come affrontare le sofferenze perseverando nella fede. E quindi l'Apostolo Pietro ha tanto da dirci, e quindi vorrei, nel tempo che ci rimane, proprio leggere alcuni versetti e trarre questi insegnamenti da Pietro, attraverso lo Spirito, ovviamente Pietro parlava per lo Spirito Santo, e quindi ciò che Dio ci dice di come possiamo e dobbiamo affrontare la sofferenza se vogliamo camminare nella sua direzione. Ci siete? Vi ho atterrito? Leggiamo insieme. 1 Pietro 4 dice questo: carissimi, amati, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Perciò, anche quelli che soffrono, secondo la volontà di Dio, affidino le loro anime al fedele Creatore, facendo il bene. Ci sono chiare indicazioni in questi versetti, milioni di cose da vedere, purtroppo il tempo è tiranno e quindi guarderemo solo alcune, d'accordo? Qui tutti d'accordo? Sì, sì, sì, sì, se no ce ne andiamo alle tre. Ok, la prima, iniziamo dalla prima, e secondo me fondamentale, è l'Apostolo Pietro inizia con il dire non vi stupite, non siate colti di sorpresa, le sofferenze verranno, non siate... In altre parole, se l'avessi scritto io, ovviamente non ispirato dallo Spirito, avrei detto non siate stupidi, non siate immaturi da questo punto di vista. Le sofferenze verranno, non siate colti di sorpresa, preparatevi. Qui ha a che fare proprio con la consapevolezza, con la conoscenza. Noi dobbiamo conoscere, sapere che le afflizioni vengono, e come ho fatto nell'introduzione, sapere da dove vengono, quali sono le fonti e come affrontarle. Se sono una conseguenza del nostro peccato, dobbiamo combattere il peccato attraverso il sangue di Cristo e la sua potenza nella nostra vita per non soffrire attraverso di esse. Altre sofferenze vengono perché Dio le permette. Perché non ho il tempo, se no anche non sarei in grado, però vengono perché Lui le permette. Quindi come le dobbiamo affrontare? Le dobbiamo affrontare non lasciandoci sorprendere da esse. Qui, di nuovo, una forte teologia della sofferenza indispensabile. Il direttore di Porte Aperte, nonché amico, Christian Nani, scrive questo. Per i cristiani perseguitati, come per la Chiesa primitiva, la pazienza nella sofferenza è vitale nel cammino del fedele. Di più, la pazienza è testimonianza cristiana. Come risponderai a un torto, a un insulto, al rigetto, fino alla prigione e alla persecuzione, definisce quanto assomiglierai al Cristo. Per noi oggi è impensabile. Possediamo una sviluppatissima teologia della benedizione e un'insufficiente teologia della sofferenza. Un'insufficiente teologia della sofferenza. Non c'è niente di più distruttivo di qualcosa che ci coglie di sorpresa. Non è vero? Pensate a un terremoto, a uno tsunami, un incidente, no? Ci coglie di sorpresa. Quando ci coglie di sorpresa fa più male, perché magari non ci siamo preparati, non abbiamo messo quella cintura, ad esempio, e ci fa più male. Per questo l'Apostolo Pietro dice non lasciatevi cogliere di sorpresa, verranno, preparatevi. Come vi preparate a tutto questo? L'Apostolo Pietro dice di non lasciarci sorprendere all'incendio che divampa in mezzo a noi. E questo ci ricorda proprio di un fuoco, quel fuoco che Dio permette per perfezionare il credente. È un tema anche che troviamo nel Vecchio Testamento, no? L'oro e l'argento si provavano e si purificavano con il fuoco. Per questo il Signore lo permette. Quindi il primo elemento importantissimo nelle nostre sofferenze è non lasciarci cogliere di sorpresa, ma essere consapevoli. Sappiamo che Dio ci benedice, lo sappiamo, Dio ci libera e ci guarisce. Per questo noi intenzionalmente andiamo a Lui e preghiamo per guarigione e liberazione, perché sappiamo che fa questo, ma sappiamo altrettanto bene che talvolta egli permette le sofferenze e le prove. Paolo 3 volte ha chiesto per la guarigione, poi si è fermato, ha detto ho capito, va bene Signore. Andiamo a lui con la stessa fiducia e con la stessa consapevolezza che egli ci accoglie, che egli ci accoglie nelle sofferenze. Questo è di fondamentale importanza. Dobbiamo essere preparati. Quindi il primo è non vi stupite, non lasciatevi cogliere di sorpresa. Il secondo, dal verso 29, dall'ultima parte del verso, 19, Il verso 19 c'è scritto proprio, lo riprendo, affidino le loro anime al fedele creatore. Quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, affidino le loro anime al Dio. Quindi affidati a Dio nella tua afflizione, nella tua sofferenza, quando appena arriva e ti scombussola e stordisce, perché questa è la prima cosa che fa la sofferenza, no? Ci proprio, boh, dove sono? Lì la prima cosa utile da fare è: Signore, io sono tuo. Signore, io rimango nelle tue braccia. Più facile a dirsi che a farsi? Assolutamente sì. Però l'Apostolo Pietro proprio ci guida a questo. È come Cristo, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Il Signore Gesù, nelle sue sofferenze, davanti alle sue afflizioni, si è affidato al Signore. E qui una delle ragioni principali perché possiamo affidarci al Signore, perché possiamo aggrapparci a Lui nelle sofferenze, perché possiamo lasciarci andare nelle sue mani, secondo me lo troviamo una delle motivazioni migliori in 1 Corinzi 4. Sentite che cosa dice 1 Corinzi 4. Perciò non ci scoraggiamo, l'Apostolo Paolo. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione, frustrato, lapidato, smarrito per mare per un giorno, eccetera, eccetera, eccetera, le chiama momentanee, leggeri afflizioni, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Le nostre afflizioni, le nostre sofferenze, nella vita di fede e di obbedienza, qualsiasi esse siano, stanno producendo qualcosa. Non sono senza senso. Non sono perché Dio, perché tutti a me. No, hanno uno scopo ben preciso. Ogni afflizione, ogni sofferenza sta producendo un frutto. E qual è questo frutto? Un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Non lo vedi? È ovvio che non lo vedi. Non guardare alle cose che si vedono. Non guardare alle cose che si vedono, per citare uno dei miei pastori preferiti. Per questo non ci scoraggiamo, per questo non lasciamoci cogliere di sorpresa. Il Signore, attraverso le nostre sofferenze, sta facendo qualcosa sempre. Per questo possiamo affidarci a Lui. Fidati, nel senso di affidati a Dio nelle tue sofferenze. Affidati a Dio, Lui sta facendo qualcosa. La terza cosa è: non vergognatevi. E non ho tempo e la salto. La quarta è: rallegratevi. E non ho tempo, la salto. Ma rallegratevi. È una costante, è un costante insegnamento nella parola di Dio. Contate pura gioia, fratelli miei, quando vi trovate dinanzi a prove di svariato genere, dice Giacomo. È una costante. Rallegrarsi nelle sofferenze. Sì, perché stanno facendo qualcosa. Non guardate alle cose che si vedono, ma guardate alle cose che non si vedono. Gesù, per la gioia posta dinanzi, dice Ebrei, cioè Lui guardava all'eternità, a me e te, ha affrontato la croce e le sofferenze indicibili che abbiamo detto prima. Rallegratevi. Poi, la quinta, fai il bene, ama. Non ho il tempo e salto anche questa. per arrivare all'ultima. Glorifica Dio. Pietro dice nel verso 13, glorificate Dio nelle vostre sofferenze. Chi soffre bene, chi soffre nel cammino verso la sua direzione, adora. Ora, sia il rallegrarsi che l'adorare in questo caso non è saltare di allegrezza, no? Mi sono spezzato una gamba, sono troppo felice e batti il 5 a tutti. Non è quella la gioia di cui si parla, ma è quella costante serenità, pace, fiducia. È quella zavorra nella nave che nel bel mezzo della tempesta la tiene centrata, la tiene in equilibrio. Quindi possiamo anche piangere, notizia. Possiamo anche piangere e lamentarci, non lagnarci, ma lamentarci al Signore e soffrire bene, ma rallegrandoci, avendo questa serenità di fondo, perché sappiamo che Lui sta compiendo qualcosa, e adorando il Signore, dicendo grazie Signore, Tu sai ogni cosa, anche attraverso questa sofferenza indicibile, a questa afflizione, a questo scombussolamento, Tu stai operando qualcosa, io Ti adoro, perché sei il creatore fedele, così che dice Pietro, sei il creatore fedele, io mi fido di Te, se hai creato i cieli e la terra, e li tieni costantemente in vita, non sarai in controllo di questa mia situazione. Io mi affido a Te e Ti adoro. Il più grande esempio da questo punto di vista è Giobbe, ricordate? La moglie gli dice, bestemmia Dio, no? Bestemmia Dio e metti fine alle tue sofferenze. E Giobbe al contrario, sentite cosa fa. Si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore, questa è adorazione. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Se vogliamo camminare nella sua direzione, nelle nostre afflizioni adoriamo. Nelle nostre afflizioni adoriamo. Questo è quello che noi, figli di Dio, siamo chiamati a vivere nelle nostre sofferenze. Nelle sofferenze causate dal peccato, andiamo al Signore, in pentimento, in arresa, volendole combattere e non ripetere nella nostra vita, con tutte le nostre forze. Vogliamo combattere ogni disequilibrio, ogni errore nella nostra vita, attraverso la forza della sua potenza, punto. Nelle sofferenze permesse da Dio, nelle sofferenze dirette o indirette che siano, cioè da persecuzione perché annunciamo il Vangelo o perché siamo umani e viviamo in un mondo corrotto, e allora in queste sofferenze noi non ci facciamo cogliere impreparati, sappiamo che verranno. È il Signore con noi. Perché ci affidiamo a Lui? Lui sta facendo qualcosa. Lui sta mettendo insieme per te e per me che camminano nella sua direzione. Per questo noi soffriamo in maniera diversa. Noi che camminiamo nella sua direzione, nelle nostre afflizioni, per noi Lui sta mettendo insieme un peso eterno di gloria. E quando saremo lì in gloria diciamo: ecco che cosa stavi facendo, wow, ecco che cosa stavi facendo attraverso quella e adoreremo. Per questo iniziamo da adesso a adorare per fede, non per quello che vediamo, ma per quello che non si vede. Amen. Ci alziamo in piedi e non c'è modo migliore per continuare a riflettere su queste cose, proprio con la Santa Cena che avremo questa mattina. E invito tutti quanti noi, fratelli e sorelle, chi è battezzato da adulto a partecipare alla Cena del Signore, proprio in questa misura, proprio consapevolmente e in arresa a Dio, dicendo: Signore, le mie afflizioni mi uniscono a Te io nelle mie afflizioni voglio camminare fedelmente. Mi aggrappo a te, mi fido di te, sapendo che questo sacrificio ha sconfitto la morte, le sofferenze, una volta e per sempre. È per forza che non le vedo, sono ancora da questo lato della gloria. Le inizio ad assaggiare? Certo. Le inizio a provare? Assolutamente. Ma lì si compirà. E ci approcciamo alla Santa Cena anche in un altro modo. Vorrei fare una cosa insieme. E in questo momento pregherò una preghiera che in realtà è il Salmo 13. E mentre io prego questa preghiera per tutti quanti noi, io vorrei che chiudiate gli occhi e pensiate alle vostre afflizioni, alle vostre sofferenze, passate che hanno ancora un'influenza su di voi oggi, o presenti, che sono pesanti, che logorano, che non sono facili, che vorreste che vadano via. E rimettiamoli insieme davanti al Signore. È un salmo di lamento. Lamentiamoci, non lamentiamo, lagniamoci davanti al Signore. Insieme. E poi partecipiamo alla cena. Fino a quando, o Eterno, mi dimenticherai? Sarà per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il mio nemico su di me? Guarda, guarda, rispondimi, o Eterno, Dio mio. Illumina i miei occhi, che talora io non mi addormenti del sonno della morte, che talora il mio nemico non dica l'ho vinto e i miei avversari non festeggino se io vacillo. Quanto a me, quanto a me, quanto a me, io confido nella tua bontà. Io confido nel tuo eterno amore. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Io canterò all'Eterno perché mi hai fatto del bene.